4 mattino. Io non ritengo che sia possibile continuare a stare a casa ancora così tanto tempo. Secondo me ci sono dei problemi psicologici insuperabili, e di cui secondo me occorrerebbe tenere conto, perché secondo me si sta rischiando troppo. Sono i numeri che contano, il MES al quale abbiamo dato 140 miliardi per averne 35. Ma dai, ma per favore! Io capisco tutti i disagi, in primis viene la salute, perdonatemi. Meglio star chiusi 2 mesi, e io sono orgogliosa di appartenere ad un paese dove in primis si guarda alla salute del cittadino e non all'economia, permettetemi. Allora, un po' di spunti interessanti. Il primo e il terzo sono collegati, perché sono i due aspetti dei quali stiamo solo in parte tenendo conto in questa sorta di lockdown. Il primo è l'aspetto psicologico. Io sono perfettamente d'accordo, il che non vuol dire uscite di casa. Voglio dire che per molte persone questo lockdown, questo blocco è un problema serio. Il fatto di rimanere in casa, magari piccole, magari in molte persone, oppure rimanere da soli, completamente da soli, per lunghe settimane. Non è facile. E pensate alle situazioni più difficili, spesso ce ne siamo occupati, non solo qua in rassegna stampa, ma in generale. Le donne vittime di violenza o a rischio di violenza da parte del partner o del marito, che si trovano in casa 24 ore al giorno con il loro aguzzino. I bambini e i ragazzi in famiglie difficili, che subiscono magari violenza anche loro e che a loro volta non hanno più nemmeno la possibilità di andare a scuola, di avere un elemento di quel tipo, di avere un ulteriore controllo su quello che succede nella loro famiglia. E poi sì, le singole persone, quelle insomma invece che situazioni difficili normalmente non le avrebbero, ma insomma le stanno vivendo. È un tema che secondo me andrebbe affrontato un po' più profondamente anche dalla politica, anche dallo Stato, provare a immaginare, al di là del molto volontariato che si sta facendo, ci sono un sacco di associazioni che si stanno proponendo e università che si stanno proponendo, e se cercate su internet le trovate, lo dico perché insomma un supporto psicologico può servire a tutti in questo momento, trovate insomma dettagli su questo. Forse un pensiero in più su questo. Sulla questione economia e salute, se volete una grande discussione che si apre su questo fronte, bisogna riflettere bene. Quello che dico io dalla mia personalissima idea è che semplicemente bisogna avere una strategia per uscire da tutto questo. Bisogna iniziare a dare una prospettiva, e questo vale anche per l'aspetto psicologico. Cioè iniziare a dire: guardate, la nostra strategia è che nel momento nel quale arriveremo a questa tappa sul fronte dei contagi, delle terapie intensive e via dicendo, ebbene succederà questo. Come sentite, non sto entrando nel dettaglio perché non sono io il tecnico, non faccio parte del comitato tecnico scientifico, non sono né uno scienziato né nulla, però l'idea mi pare di buon senso, è che iniziare a dare una prospettiva possa servire per tutti, per le aziende, per i lavoratori, per le persone che sono chiuse in casa, iniziare a dirci che cosa succederà, quali saranno i passi successivi, non indicando una data, ma indicando il momento nel quale, al verificarsi di alcuni eventi, succederanno determinate cose. Terzo punto, il MES. Allora, qua non è una questione di soldi, mesi, non mesi. Allora, la mia impressione è che l'accordo, poi ne parleremo, per carità avremo modo di discuterne, che l'accordo raggiunto ieri all'Eurogruppo sia tutto meno che un male, perché si è raggiunto l'accordo sulla Banca Europea degli Investimenti, sul fondo Sure, sul MES inteso come sì ai fondi dal fondo salva stati, ma con la sola condizionalità di utilizzarli per spese sanitarie o correlate alle spese sanitarie. Un forte cedimento olandese su questo fronte. E soprattutto si è aperto all'ipotesi di un fondo comune europeo, di fondi comuni europei per così dire, che saranno dedicati a Covid-19. E il cui finanziamento di questi fondi è da decidere, il che vuol dire che non è un'apertura agli eurobond, ai corona bond, però all'aria di qualcosa che si avvicina all'ipotesi della condivisione del debito. Potrebbe essere uno degli elementi. Ne discuteranno i capi di Stato e di Governo, però quello è più il progetto di medio termine, cioè i corona bond, gli euro bond non sono mai stati un progetto sull'immediato, emettiamo i corona bond e mettiamo immediatamente i soldi nell'economia, sono stati più, sempre più un pensiero per il futuro, ok? Per quanto appunto di medio termine, di breve medio termine, per il prossimo anno, due anni, tre anni. Quindi è uno strumento da costruire. Secondo me ci sono state delle discrete aperture ieri. E questo non è per così dire salvare il governo, è proprio a guardare il documento letto questa mattina che contiene i risultati dell'Eurogruppo, che vi consiglio tra l'altro di andare a vedere, lo trovate sul sito dell'Eurogruppo, insomma, se volete farvi un'idea. È tutto là. La seconda parte di 24 mattino di venerdì 10 aprile, quella dedicata alla rassegna stampa. Ebbene, molte aperture dei giornali su quanto proseguirà, quanto andrà avanti questa chiusura. Italia chiusa sino al 3 maggio, è il titolo del Corriere della Sera. Se ne riparla il 4 maggio, è il titolo della Repubblica. Fase 2 rinviata, blocco fino a maggio, il Messaggero. Fatto Quotidiano, più polemicamente, Confindustria non passa, Conte resiste al pressing, tutto chiuso fino al 3 maggio. Il virus non molla, la riapertura slitta, il Quotidiano Nazionale. Apre sull'Europa la Stampa, l'Europa si sveglia, in arrivo 500 miliardi. Punte MES è il titolo del Manifesto, compromesso all'Eurogruppo, intesa europea e con gli aiuti a venire. Non si riapre, il titolo del giornale, fine pena mai, titola. La gente si ribella, vuole uscire di casa, titola Libero. Dall'Europa solo fregature, servirebbe un governo vero, titola La Verità. Imprese, ecco le regole per i prestiti, è l'apertura del Sole 24 Ore che dedica ovviamente titoli anche all'Europa, intesa sui quattro pilastri anticrisi. E c'è anche un pezzo di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, Olanda, quei paradisi fiscali dietro il rigore dei conti pubblici. E queste sono le aperture. Veniamo a qualche storia laterale, oggi sempre correlata, non c'è molto altro sui giornali, devo dirvi la verità, non molto altro, e quindi ancora storie correlate a Covid-19. La questione di queste maledette mascherine, che continuano ad essere al centro della scena con tutta una serie di problematicità tipicamente italiane, tra burocrazie, blocchi e truffe. Delle burocrazie, dei blocchi abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, abbiamo raccontato come si proceda molto lentamente sulle autorizzazioni, il sistema delle cosiddette delle autocertificazioni, perché anche qua serve l'autocertificazione nel momento nel quale si iniziano a produrre le mascherine o si importano, che non funzionava a pieno regime, e dunque ci ritroviamo, come nel caso che ci racconta il giornale a pagina 12 con Giuseppe Marino, delle mascherine per i carabinieri bloccate dalla burocrazia. Ed eccolo qua. 1 milione di mascherine ferme per 3 giorni alla dogana della Malpensa in attesa di documenti. E che documenti? Una parte di quelle mascherine, denuncia il senatore azzurro Massimo Mallegni, è destinata ai carabinieri. E i doganieri hanno fermato tutto perché pretendevano che fosse allegata la carta d'identità del destinatario. Che non sappiamo, deve essere una carta d'identità nella quale c'è scritto arma dei carabinieri. Che però nella specie è l'arma. Ma come si fa a chiedere di produrre un documento che contiene un dato come l'indirizzo di casa del comandante generale dei carabinieri? Un paradosso che purtroppo non pare isolato. Nei giorni scorsi altri operatori avevano segnalato gravi rallentamenti nei controlli doganali su mascherine, guanti e macchinari sanitari fondamentali per la lotta al Covid-19, e il giornale, scrive Giuseppe Marino, ne aveva dato conto. Per capire come si sia prodotto un simile caos serve una premessa. La domanda enorme di mascherine ha scatenato una frenetica corsa alla speculazione. Imprenditori improvvisati si sono dati all'importazione dalla Cina senza avere la capacità tecnica di garantire che i prodotti siano in regola o senza farsi scrupoli. Non a caso è una storia di mascherine quella che troviamo un po' sulle cronache di tutti i giornali e che peschiamo però dal Messaggero, che è quello che ce l'ha un po' più ricca. È la vicenda di Antonello Ieffi, arrestato ieri, 42 anni, arrestato ieri, accusa turbativa d'asta, ed è il primo arresto per Covid dopo aver partecipato a una gara Consip proprio per le mascherine. Milioni di euro in cambio di milioni di mascherine. Peccato che Antonello Ieffi, 42 anni, imprenditore di Cervaro, provincia di Frosinone, le chirurgiche non sapeva bene dove andarle a prendere. Un progetto spregiudicato, una partita da baro giocata sulla pelle del paese. Un bando vinto, tra l'altro, attenzione, un bando vinto con Consip, la centrale d'acquisti della pubblica amministrazione, per 24 milioni di presidi sanitari che sarebbero dovuti finire in tempo record negli ospedali per proteggere medici e infermieri impegnati nella guerra al Covid-19. Mentre il denaro, quello sì, Ieffi era pronto a incassarlo. È calato ieri il sipario su questa presunta montatura architettata dal 42enne quando i finanzieri del GICO lo hanno arrestato. È il primo caso appunto che riguarda l'emergenza Covid. Cosa aveva fatto, dato che aveva già alle spalle delle indagini per truffa? Insomma, era un personaggio abbastanza noto. Ha creato, o meglio, aveva una società agricola e aveva ceduto le quote a una testa di legno. Finita anche lei invischiata nell'inchiesta, una donna di 40 anni senza uno straccio di precedenti penali. La partita inizia l'11 marzo, la società partecipa a questa gara Consip e di fatto vince per la cessione di un lotto di questi 24 milioni di mascherine per 16 milioni di euro. Insomma, a un certo punto le forze dell'ordine si accorgono che qualcosa non funziona, lo mettono sotto intercettazioni. Ho fatto una domanda al ribasso, spiega al telefono appunto, ma a mia volta un 30% di margine su numeri esageratamente grandi. E appunto il 16 marzo, quando doveva esserci la prima consegna, Biocrea non porta a casa nemmeno una mascherina. Tra l'altro un personaggio Ieffi, abbastanza noto, un flirt con Emanuela Arcuri, un arresto per rissa a Torino, una serie di debiti, eppure appunto ha partecipato, ovviamente con una testa di legno perché altrimenti non avrebbe potuto farlo, a questa gara per la Consip e l'ha anche vinta. A proposito di regole un po' assurde italiane e di dignità delle persone, il Fatto Quotidiano a pagina 15 ci porta su quello che è successo a Gragnano in provincia di Napoli, dove il comune ha pubblicato il file PDF con i nomi, i cognomi e le date di nascita delle 700 persone ammesse a ricevere il buono spesa, quello che è stato concesso con gli stanziamenti dello Stato per appunto aiutare le persone in difficoltà in questa fase. 701 signori e signore, scrivono Sandra Murri e Vincenzo Iurillo appunto a pagina 15, che a cui d'ora in poi si potrà attribuire una patente di povertà certificata. C'è chi ha fatto partire la catena di Sant'Antonio dai sospetti intorno a questa misura di emergenza che il governo Conte ha affidato alla cura dei comuni. La legge impone di pubblicare i beneficiari di importi pubblici, taglia corto il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino. Il dirigente dei servizi sociali ha ritenuto di fare così in base ad un obbligo normativo. Cimmino ha ragione, e quindi attenzione, la norma esiste, cioè il comune teoricamente deve rendere pubblici gli elenchi, pubblici e quindi visibili a tutti, gli elenchi di chi ha ricevuto il buono spesa, persone che magari per dignità non si erano avvicinate fino adesso ad un aiuto comunale e che improvvisamente sentono la necessità e hanno il bisogno di avere del denaro per poter fare la spesa e per poter comprarsi da mangiare e che adesso si ritrovano sostanzialmente messe in piazza pubblicamente, magari all'interno di un comune piccolo come quello di Gragnano. pudore e ragioni di privacy, però hanno suggerito alla quasi totalità delle amministrazioni comunali di non mettere sul portale l'elenco, o almeno di fare come il comune di San Giorgio a Cremano. Il file c'è, ma dei beneficiari ci sono solo le iniziali. In teoria, se il dirigente non pubblica l'elenco, racconta il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, può andare incontro a conseguenze davanti alla Corte dei Conti. Io ovviamente passerò alle opposizioni solo l'elenco punteggiato, solo gli uffici hanno i dati completi. La norma ci imponeva la pubblicazione, ma abbiamo fatto un passo verso la tutela della privacy. È da vedere se tutto questo susciterà, come forse prevedibile da qualche parte, qualche indagine. Una pausa. Mattino. Per riaprire un'impresa non basta un mese, ce ne vogliono 3, 4, 5 per portare il giro del lavoro. Quello che sarà, sarà. Non possiamo pretendere di essere immortali, quindi con le dovute precauzioni, mascherine, guanti, tutto quello che vi pare, bisogna uscire. È perfettamente inutile procrastinare questa data. Ma lei per chi fa il tifo? Per gli olandesi o per gli italiani? Lei è italiano? Ah sì sì, sì sono italiano, non faccio il tifo faccio il tifo per l'Italia, naturalmente, però non mi sembra che l'accordo che si è raggiunto ieri all'Eurogruppo sia qualcosa di... particolarmente drammatico. A me sembra che ci si stia impuntando un po' sul nome, cioè il fatto che si chiami MES, dato che ormai ha una brutta fama, anche se gli si cambia, no? L'obiettivo diventa un fondo di fatto per le spese sanitarie, almeno per il momento, se ci si vuole accedere, sta facendo sì che non se ne possa nemmeno parlare. E poi, ripeto, registriamo un cambiamento di posizione su questo fronte da parte dell'Olanda. È un bicchiere mezzo pieno, secondo me, quello dell'Eurogruppo di ieri. Però insomma, tra poco ne parleremo anche nella parte di rassegna stampa con Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Allora, e buona Pasqua. Grazie, e buona Pasqua anche a te. Anzi, te la faccio poi, dopo, quando siamo in chiusura di trasmissione. Ascolta, voglio partire con te però dalle cose che ci sottoponevano i primi due ascoltatori che hai sentito, ossia la questione della ripartenza, il come ripartire, il quando ripartire, e partirei dalla data, no? Perché è stato tutto prorogato dopo gli incontri che si sono avuti ieri tra il governo e le parti sociali, e a questo sono dedicate le aperture di molti giornali, no? Appunto, l'Italia è chiusa fino al 3 maggio del Corriere della Sera, se ne riparla il 4 maggio, la Repubblica, insomma, sono tutti un po' su questo taglio e si concentrano un po' tutti su questo. Se vuoi bisogna partire anche da un po' prima, nel senso che ieri sono stati dati, come tutti i giorni alle 18, i risultati della crisi pandemica, e siamo ancora in alto mare, cioè, non si è verificata quella tendenza, una lenta e costante discesa, ma siamo, sia pure con dei segnali incoraggianti, siamo ancora sul plateau, quello che fu definito 10 giorni fa il plateau, cioè in alto, ancora i morti sono tantissimi, i ricoverati anche tanti, e quindi fino a che non avremo segnali davvero incoraggianti e indiscutibili in quella direzione, è chiaro che il governo sia prudente. Ieri anche nell'incontro con le parti sociali, le stesse parti sociali hanno convenuto che c'è ancora qualche preoccupazione. Quindi ieri la decisione comunicata prima alle parti sociali che fino al 3 maggio, quantomeno, perché poi non è stato detto dal giorno 4 tutti liberi, fino al 3 maggio saremo ancora chiusi in casa. Sì. E questa cosa ha provocato un piccolo pandemonio, un dibattito anche in Parlamento, fra le forze politiche, molto così accalorato. Sì. E poi così quella reazione di delusione che tu hai registrato nelle telefonate. Sì, negli WhatsApp dei nostri ascoltatori. Tra l'altro, vi dico a proposito di questo, è che Ci si prepara a Pasqua e ben lo sapete, e ci si prepara anche al fatto che insomma i controlli siano molto più stretti, proprio per evitare che la gente in questi giorni di festa, giorni nei quali abitualmente si esce, si va a fare il picnic, si muova un po' troppo. Lo dice bene la ministra Lamorgese in un'intervista al Corriere della Sera, dice non si sprechi la fatica fatta, ma soprattutto dice occhio, perché in questo fine settimana saremo rigidissimi. Sì, ecco, ovviamente parlando di politica dobbiamo dire chiaramente noi quello che i giornali non dicono, dicono fino a un certo punto, e cioè che l'incontro fra l'incontro della politica fra forze antagoniste è stato un fallimento, in Italia è stato un grande fallimento. Lina Palmerini oggi su Sole 24 Ore dice ma strano, perché c'era stato uno sforzo del Presidente della Repubblica e speravamo che l'Europa, che in fondo incoraggiò la svolta di agosto quando cadde il governo fra Lega 5 Stelle e se ne fece uno nuovo PD 5 Stelle, ecco, questo fu molto molto incoraggiato dall'Europa, ci aspettavamo che poi fossero coerenti in Europa, mentre forse non lo sono state, l'Europa non l'è stata abbastanza. Io condivido il tuo giudizio, ma lo condivido, anzi direi qualcosa di più. Ieri questo accordo, ma ne parleremo dopo di questo, sì, accordo, comunque è stato un buon accordo, è stato un buon accordo, come sempre gli accordi sono dei punti di compromesso, non sono... Sì. Però ti ripeto, ne parliamo dopo. Non puoi aspettarti di vincere su tutta la linea, comunque ci arriviamo, ma è adesso. Ovvio, no? È ovvio, ma poi a nome di che? Nel senso, ci sono due parti e si raggiunge un compromesso, non è che l'accordo è il trionfo della tua parte sugli altri. Poi hai un bel dire, ci sono inchieste sempre sul Sole 24 Ore, sul fatto che, sul fatto che l'Olanda abbia enormi vantaggi economici dalla posizione, paradisi fiscali dietro il rigore dei conti, sì, pubblici, Roberto Gagliullo e Angelo Mincuzzi. Gagliullo e Mincuzzi si fanno un po' un punto. A pagina 11, sì. Però torniamo alla politica. Sì. La politica non ha saputo fare la parte, o non ha saputo, non ha voluto fare la parte sua, perché è evidente anche un superficiale lettore dei giornali che tutti stanno lì a cercare il proprio vantaggio, tutti pensano, trattano questa crisi come se fosse una crisi passeggera che poi ci riporterà in assi di partenza più o meno come siamo entrati in questa gara, e quindi si fanno delle schermaglie che paralizzano e danno una brutta immagine dell'Italia. Sì. Guarda Paolo, mi fai venire in mente, ne parlavamo prima alle 6:30, il fatto che ieri si è andati al voto sul decreto Cura Italia con la fiducia, e le scene parlamentari che abbiamo visto ieri, guarda, te ne faccio sentire solo un piccolo passaggio, Paola Taverna, ma potrei farti sentire Ignazio La Russa che attacca uno del Movimento 5 Stelle, gli dà dell'untore, però insomma dà proprio la sensazione di una politica che è tornata al clima precedente. Sentiamo Taverna. Nessuno si può permettere di definire quest'Aula, il Parlamento italiano, un circo, perché altrimenti, collega Bagnai, se fosse così non ci sarebbero dubbi su chi siano i pagliacci, se questo è un circo. Capito? Era chiarissimo, io l'ho seguito con grande attenzione, è chiaro, non, insomma, l'abbiamo detto. La politica è mancata all'appello, nel senso che anche quegli incontri che ci sono stati fra maggioranza e opposizione, dai, ho fatto uno sforzo in più per mostrarvi aperti, mentre invece erano tutti molto rigidi e si è visto. Comunque, riapriranno le librerie, ecco, quello che si è capito, sì, è che da subito dopo Pasqua riapriranno le librerie, questo è un segnale di distensione. Ottimo per chi come me scrive libri e Repubblica o ha lavorato nel campo dell'editoria, per tutti gli altri italiani forse troppo poco. Ma incuriosito su Repubblica, guardate la pagina 3, c'è uno schema su quali sono le imprese che possono riaprire prima. a basso, medio o alto rischio. Allora, a basso sono l'agricoltura e i notai, cioè le attività legali, contabili, questi possono essere fabbricazione di mobili, attività immobiliare. Medio rischio, fabbriche e negozi, quelli che apriranno un po' più tardi, uffici pubblici, negozi esercenti al dettaglio e dunque anche i commessi. Altissimo, alto, altissimo rischio sono scuole, ristoranti e bar, dentisti, parrucchieri ed estetisti, palestre e discoteche. Queste devono aspettare e forse, adesso è presto per fare delle previsioni, forse per questi anche i primi di maggio sarà troppo presto. Forse un pochino troppo presto. Non ti dico, ovviamente i giornali di destra sono scatenati, non si riapre il giornale, fine pena mai. La pazienza sta finendo, Libero, la gente si ribella, vuole uscire di casa, sono stanco, ora esco e sia finita, dice Vittorio Feltri sulla prima pagina del suo giornale di Libero, e Pietro Senaldi, che è il direttore di Libero, sì, dice che i PM piombano sul virus, si salvi chi può, qui la si sta buttando tutto su una cosa giudiziaria. Anche su questo abbiamo detto, ho detto almeno, è un po' presto anche per scatenarsi con inchieste giudiziarie, si faranno, verrà il tempo di inchieste giudiziarie, ma siamo ancora in alto sul plateau. Augusto Minzolini sul giornale dice che ieri Renzi avrebbe detto che lui non ci sta a tutto questo. Renzi, come ricordiamo, è stato il primo a dire che voleva riaprire un po' tutto, e dice sono sconcertato. Brunetta dice, Brunetta di Forza Italia, autoritarismo cialtronesco, lo sfogo di Boccardi, Confindustria, il decreto economico è una schifezza. Altra stranezza che ho registrato è che l'atteggiamento di Confindustria è molto più composto di quello della destra. La Confindustria, le quattro Confindustrie del Nord avevano chiesto di riaprire il più presto possibile, però oggi, a leggere con attenzione solo 24 ore, si vede che Confindustria, pur essendo scalpitante, ma si rende conto del discorso che abbiamo fatto all'inizio, quindi non c'è una foga, la foga è più in quei discorsi un po' scomposti in Parlamento, di cui parlavi tu all'inizio. E che facciamo sentire prima. Adesso veniamo, tra l'altro, vi dico a proposito di Confindustria, avremo ospite il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, questa mattina alle 8.25. Ci fermiamo, c'è il traffico, sperando che non ce ne sia, come sempre, perché vuol dire che la gente sta a casa, e poi parliamo invece dell'Eurogruppo, di questo grande tema che vi sta facendo anche dibattere, ci stanno arrivando un sacco di messaggi. A tra un attimo. Ed eccoci dunque, l'accordo dell'Eurogruppo, c'è il pezzo di Beda Romano sul Sole 24 Ore e siamo a pagina 8 che ci porta un po' su quelli che sono i punti di questo accordo, no? Il tema qual è? È il tema del MES, che è una parola che gran parte dell'opposizione e per pezzi della maggioranza è assolutamente impronunciabile, insomma, a prescindere da come è stato raggiunto l'accordo, e poi questo fondo che arriverà in futuro e che non si sa ancora come verrà finanziato, forse addirittura appunto con dei corona bond o con una forma di mutualizzazione del debito, che servirà a dare un aiuto più a medio termine sostanzialmente. Quindi questa è la conclusione dell'Eurogruppo, Paolo. Ecco, hai detto giustamente, l'accordo potrà comprendere anche i corona bond, magari si chiamerà come sempre le furbizie, qui l'Italia ha fatto scuola in altro modo, ma non si esclude che in autunno, certo l'autunno è tardi, ma vengano fuori anche dei bond. Comunque l'Eurogruppo ha trovato un compromesso, il Corriere della Sera ha una buffa iniziativa per un articolo di Federico Fubini a pagina 9, dai voti come si fa i calciatori dei comportamenti nella trattativa, e i voti sono 8 per Emmanuel Macron, 8 perché Macron ha retto, perché tutti pensavano che Macron facesse fronte con l'Italia e la Spagna per poi avere più forza e mettersi d'accordo con lui, lui invece, no, invece ha retto, e quindi gli danno 8, il Corriere della Sera dà 6 a Ursula von der Leyen, 5-5, però la sufficienza alla cancelliera tedesca Angela Merkel, 8-5, un voto premiante a Paolo Gentiloni, e 3-5 a Mark Rutte, sì, il premier primo olandese. Ministro olandese. Insomma, è una tabella anche da tifosi, credo, sì. È come se fosse in campo l'Italia contro il resto d'Europa. Mi colpisce appunto che il voto dato alla Merkel sia un voto più speranzoso, 5-5, e quello dato a Mark Rutte invece è un voto di bocciatura. Però guarda, persino Mark Rutte si è dimostrato flessibile nel dibattito politico olandese, perché poi questi, la gente dimentica che sono paesi in cui si vota, non sono dittature che tu ti metti d'accordo con il capo e hai trovato l'accordo, sì. Sono tutti paesi dove si vota come in Italia, sì. Dove c'è, anche se non come in Italia, un dibattito molto teso, e quindi fare un accordo sbagliato per loro significa innanzitutto fare uno sbaglio per quello che loro pensano, e poi rischiare che partiti di estrema destra iper sovranisti prendano il potere, e allora Dio sono dolori, altro che accordo. Cioè, ricordiamoci Paolo, che così come per alcune forze politiche qua impronunciabile la parola MES, per molte forze politiche là in Olanda e in Germania la parola Eurobond è altrettanto impronunciabile, quindi ognuno ha la sua opinione. Bravissimo. Pubblica con la quale fare i conti. L'hai detto, si vota, ripeto, hanno i loro giornali, hanno la loro vivace opinione pubblica, e poi considerano spesso, noi stessi italiani diciamo che il nostro paese ha dei difetti, e loro leggono anche i giornali italiani. Per esempio oggi c'è una polemica violentissima su tutti i giornali, perché diverte un giornale tedesco, ha detto ma noi se diamo i soldi all'Italia questi rischiano di finire in mano alla malavita organizzata, e così sdegno. Un editoriale del giornale dice che la Germania, se noi abbiamo la malavita organizzata, loro sono nazisti. Insomma, anche su questo ci vuole più compostezza, perché sai chi è che ha detto, anzi tu l'hai ricordato spesso, sì, che rischiamo di dare i soldi alla malavita organizzata? E siamo noi, cioè il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, Roberto Saviano, tutti coloro che si occupano della mafia. E anche Beppe Grillo qualche anno fa, lo abbiamo ricordato, abbiamo fatto sentire un audio dopo una visita all'Europarlamento, che va e dice: io gli ho detto di non dare fondi europei all'Italia, perché questi vanno, rischiano di andare all'Andrangheta, alla Camorra, alla Sacra Corona Unita. Eppure ieri proprio Luigi Di Maio, insomma, ha addirittura chiesto al governo di Berlino di dissociarsi da un articolo di giornale. Questa la trovo incredibile, ma ti pare a te? I giornali sono liberi, è come se qualcuno chiedesse al nostro governo di dissociarsi da un articolo del Corriere della Sera, ma è davvero, c'è una concezione del ruolo dei giornali veramente primordiale, mi stupisco davvero, cioè i giornali scrivono quello che vogliono, fu fatto anche con la Francia, quando pubblicarono quella vignetta orribile, per carità, il pizzaiolo, sì, italiano. Era un video satirico di una su una, sì, televisione, sì. Furono chieste le scuse, sì. Ma anche si può chiedere le scuse a un governo per una cosa che è un libro, che la libera stampa ha pubblicato? Si possono criticare, farne di ancora più veementi, ma non si può chiedere alla politica di intromettersi. Una interessante polemica si apre, ho visto sul giornale un'intervista di Alberto Mingardi dell'Istituto Bruno Leoni, che è un liberale liberalissimo, che dice: da liberale dico aprite le chiese, perché le chiese vanno tenute aperte. Poi anche questo, come sapete, ha sollevato, sì, polemiche, e comunque appunto l'Italia la butta molto, ti ho già detto, delle discussioni sui magistrati, sull'intervento molto forte. Sì, della magistratura. Sì. E mi è sembrato buffo il titolo di testata del Fatto Quotidiano: Conte resiste al pressing, tutto chiuso fino al 3 maggio, Confindustria non passa, gigantesco, come se fosse una partita. Confindustria non passa, non è che Confindustria sia un soggetto politico che voleva imporre una decisione, era la pressione di tutti coloro che vogliono tornare al lavoro e che insomma in un dibattito che è sano, perché è un dibattito fra salute e esigenza di non andare in bancarotta. Allora, prima poi di chiudere, notizia positiva. Vai. Allora, scusa, perché una notizia positiva, i giornali non danno adeguato risalto. Io l'avrei messa in modo molto più grande che nello Yemen, dove infuria la guerra in questo momento più violenta che ci sia sul pianeta, una delle più violente, perché purtroppo ce ne sono molte, si è stabilito che per dar spazio agli aiuti del coronavirus ci sia una tregua di almeno 2 settimane. Guarda che queste tregue sono significative, perché vorrei ricordare che in Libia proprio un anno fa di questi giorni Haftar aveva annunciato di essere alla periferia di Tripoli, in procinto di conquistare Tripoli, e la guerra è andata avanti per un anno intero. Laddove non è riuscita la politica a mettere d'accordo, cioè è uscito il coronavirus. Il coronavirus ha portato una pace provvisoria in Yemen, non è riuscito a portare una pace provvisoria nel Parlamento italiano. Speriamo bene dopo Pasqua, speriamo. Che dopo Pasqua cambi questo clima politico. Allora, caro Paolo, buona Pasqua dunque. Noi ci risentiamo mercoledì, perché lunedì 24 mattino non ci siamo. Insomma, non ci sono i giornali poi lunedì. Tra l'altro, tra le altre cose. E ci risentiamo dunque mercoledì, Paolo, buona Pasqua. Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori. Ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo appunto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e poi chiuderemo con una cosa un po' più a guardare il futuro della ristorazione. A tra poco.